Era 51, chiedo l'ora e non risponde nessuno. Chiedo da bere e non risponde nessuno. Io qua vengo in pace, non vi importuno. Ho bisogno di parlare con qualcuno. Mi serve aiuto, mandatemi qualcuno. La verità in parte è che sono venuto qui per chiedere caffè, latte e un chilo di fumo. Vengo dal pianeta XX-1, quindi sai che se mi incontri torni sempre a meno uno. Quando siamo tutti tristi iniziamo a saltare, e se siamo felici ci mandiamo a fanculo. Culo, ma quanto è che vi piace sto culo? Tutti che guardano e palpano il culo. Ora torno a casa da mia moglie e dico aliena, guarda, prendi e mettitelo in Ma certo che voi umani siete un po' troppo strani. Sembrate tutti alieni e noi esseri umani. Seguendo la cometa ho sbagliato pianeta. Ora inverto la rotta e torno a casa subito. Comandante, mi dia un istante, riferisco. Questi umani, li assicuro, non capisco. Pensano che arriviamo da lontano volando sopra un disco, ma nel frattempo facciamo al volo un altro disco. Ho visto che sulla terra non s'accetta il misto. Comandante, le garantisco, ho cercato fra gli umani Buddha e Gesù Cristo, ma l'assicuro che io non ho visto. Qui si esce tutti quanti dall'utero e non importa come, ma basta che fai il numero. Risolvo nel problema con un taglio per esubero. Tutti depressati come tappi di sughero. Qui l'allegria la chiamano bamba. Ballano cose tipo rumba, la zumba, la samba. Questi umani sono proprio strani. Ho conosciuto una razza migliore di loro cani. Ma certo che voi umani siete un po' troppo strani. Sembrate tutti alieni e noi esseri umani. Seguendo la cometa ho sbagliato pianeta. Ora inverto la rotta e torno a casa subito. Qui Warciuna, ave madre, mi sentite? Veniteci a riprendere al più presto se riuscite. Operazione andata male, missione fallita. Abbiamo riscontrato problemi con queste forme di vita. Sono troppi milioni, vivono come automi. Non c'è senso del dovere come padrontoni. Hanno il cervello bruciato per via dell'effetto serra. Non è il pianeta Terra, è un pianeta a terra. Ho visto delinquenti messi a capo di stato prendere incentivi se commettono un reato. Popoli morire per un colpo organizzato. Malattie, epidemie, ma nessuno è stato. Si armano, si ammazzano, si aiutano e poi si amano, si sposano, divorziano. E noi siamo gli extraterrestri, loro gli umani. Ci dispiace, ma ritorneremo forse un domani. Ma certo che voi umani siete un po' troppo strani. Sembrate tutti alieni e noi esseri umani. Seguendo la cometa ho sbagliato pianeta. Ora inverto la rotta e torno a casa subito. Ma certo che voi umani siete un po' troppo strani. Sembrate tutti alieni e noi esseri umani. Seguendo la cometa ho sbagliato pianeta. Ora inverto la rotta e torno a casa subito.